Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tale era la foga della Letizia generale che un quarto d'ora bastò perché Tancredi e il Contino si asciugassero, si ripulissero, cambiassero divise e si ritrovassero nel Leopoldo attorno al caminetto. Bevevano tè e cognac e si lasciavano ammirare. Quei due giovani ufficiali erano i primi che le ragazze Salina vedessero da vicino, tutti e due in doppio petto. Tancredi con i bottoni d'argento dei lancieri, Carlo con quelli dorati dei bersaglieri, con l'alto colletto di velluto nero bordato d'arancione il primo, cremisi l'altro, allungavano verso la brace le gambe rivestite di panno azzurro e di panno nero. Sulle maniche i fiori d'argento o d'oro si snodavano in ghirigori, slanci e riprese senza fine. Don Fabrizio non capiva bene. Li ricordava entrambi rossi come gamberi e trasandati. Ma insomma, voi altri garibaldini non portate più la camicia rossa. I due si voltarono come se li avesse morsi una vipera. Ma che garibaldini e garibaldini, zione! Lo siamo stati, ora basta. Cavriaghi e io siamo ufficiali dell'esercito regolare di Sua Maestà il Re di Sardegna per qualche mese ancora, d'Italia fra poco. Quando l'esercito di Garibaldi si sciolse, si poteva scegliere andare a casa o restare nell'esercito del re. Lui ed io, come tutte le persone per bene, siamo entrati nell'esercito vero. Con quelli lì non si poteva restare. Non è così, Cavriaghi? Mamma mia, che gentaglia! Uomini da colpi di mano, buoni a spavacchiare e basta. Adesso siamo fra persone come si deve, siamo ufficiali sul serio, insomma, e sollevava i baffetti in una smorfia di adolescente disgusto. Ci hanno tolto un grado, sai, zione? Tanta poca stima avevano della serietà della nostra esperienza militare. Io, da capitano, sono ridiventato tenente, vedi? E mostrava gli intrichi dei fiori. Lui, da tenente, è sottotenente. Ma siamo contenti come se ci avessero promossi. Siamo rispettati in tutt'altro modo adesso con le nostre divise. Sfido io, interruppe Cavriaghi. La gente non ha più paura che rubiamo le galline, ora. Esaurita la conversazione sui mutamenti militari, si passò a più vaghi argomenti. Concetta e Cavriaghi si erano seduti insieme, un po' discosti, ed il Contino mostrava a lei il regalo che aveva portato da Napoli, i canti di Aleardo Aleardi, che aveva fatto splendidamente rilegare. Mentre il bersagliere leggeva i molli versi, con voce accorata e pause piene di sconforto davanti al caminetto, Tancredi estraeva di tasca un astuccetto di raso celeste. «Ecco l'anello, zione, l'anello che dona d'Angelica, o piuttosto quello che tu, per mia mano, le regali». Fece scattare la molletta ed apparve uno zaffiro scurissimo, tagliato in ottagono schiacciato, serrato tutt'intorno, stretto stretto, da una moltitudine di piccoli purissimi diamantini, e che valeva chiaramente le 300 onze spedite da Don Fabrizio. In realtà era costato assai meno. In quei mesi di semisaccheggio e di fughe a Napoli si trovavano bellissimi gioielli d'occasione. Dalla differenza di prezzo era saltata fuori una spilla, un ricordo per la Schwarzwald. L'anello girò di mano in mano, fu ammirato, lodato e venne esaltato il prevedibile buon gusto di Tancredi. L'astuccetto aveva compiuto tutto il giro attorno al caminetto ed era ritornato nelle mani di Tancredi quando da dietro la porta si udì un sommesso «Si può?» Era Angelica. Tancredi ricevette come una frustata, si alzò, corse verso di lei senza parlare e la baciò sulla bocca. L'astuccio che teneva nella destra solleticava la nuca recline. Poi fece scattare la molla, prese l'anello, lo passò all'anulare di lei. L'astuccio cadde per terra. «Tieni, bella, è per te, dal tuo Tancredi». L'ironia si ridestò. «E ringrazia anche Ezione per esso». Thank you. In seguito all'arrivo degli ospiti benvenuti, il ritorno a Palermo fu rinviato e seguirono 2 settimane di incanti. L'uragano che aveva accompagnato il viaggio dei 2 ufficiali era stato l'ultimo di una serie e dopo di esso risplendette l'estate di San Martino, che è la vera stagione di voluttà in Sicilia. Temperie luminosa e azzurra, oasi di mitezza nell'andamento aspro delle stagioni, che con la mollezza persuade e travia i sensi, mentre con il tepore invita alle nudità segrete. Di nudità erotiche nel palazzo di Donna Fugata non era il caso di parlare, ma vi era copia di esaltata sensualità, tanto più acre quanto maggiormente rattenuta. Il palazzo dei Salina era stato 80 anni prima un ritrovo per quegli oscuri piaceri nel quale si era compiaciuto il 700 agonizzante, ma la reggenza severa della principessa Carolina, la neoreligiosità della Restaurazione, il carattere soltanto bonariamente carnale dell'attuale Don Fabrizio avevano perfino fatto dimenticare i suoi bizzarri trascorsi. I diavoletti incipriati erano stati posti in fuga. Esistevano ancora, certamente, ma allo stato larvale ed ibernavano sotto cumuli di polvere in chissà quale soffitto dello smisurato edificio. La venuta a palazzo della bella Angelica aveva fatto un po' rinvenire quelle larve, come forse si ricorderà. Ma fu l'arrivo dei giovanotti innamorati che ridestò davvero gli istinti rimpiattati nella casa. Essi adesso si mostravano dappertutto, come formiche destate dal sole, disintossicati forse, ma oltremodo vivaci. Cavriaghi era innamorato di Concetta, ma fanciullo come gli era, e non soltanto nell'aspetto come Tancredi, ma nel proprio intimo, il suo amore si sfogava nei facili ritmi di Prati e di Aleardi, nel sognare ratti al chiaro di luna, dei quali non si arrischiava a contemplare il logico seguito e che del resto la sordità di Concetta schiacciava in embrione. Le 2 altre ragazze, invece, Carolina e Caterina, tenevano assai bene la loro parte nella sinfonia di desideri che in quel novembre risuonava per tutto il palazzo, mescolandosi al mormorio delle fontane, allo scalciare dei cavalli in amore nelle scuderie ed al tenace scavo di nidi nuziali dei tarli nei vecchi mobili. Erano giovanissime ed avvenenti e, benché prive di innamorati particolari, si ritrovavano immerse nella corrente di stimoli che si incrociavano fra gli altri e spesso il bacio che Concetta negava a Cavriaghi, la stretta di Angelica che non aveva saziato Tancredi si riverberavano sulle loro persone, sfiorava i loro corpi intatti e per esse si sognava e se stesse sognavano ciocche madide di speciosi sudori, gemiti brevi. Financo l'infelice Mademoiselle d'Ombrey, a forza di dover funzionare da parafulmine, come gli psichiatri si infettano e soccombono alle frenesie dei loro ammalati, fu attratta in quel vortice torbido e ridente, quando, dopo una giornata di inseguimenti e agguati moralistici, essa si stendeva sul suo letto solingo, palpava i propri seni appassiti e mormorava indiscriminate invocazioni a Tancredi, a Carlo, a Fabrizio. Centro e motore di questa esaltazione sensuale era naturalmente la coppia Tancredi-Angelica. Le nozze, sicure benché non vicine, stendevano in anticipo le loro ombre rassicuranti sul terriccio arso dei loro mutui desideri. La differenza di ceti faceva credere a Don Calogero normali nella nobiltà i lunghi colloqui appartati, e dalla principessa Maria Stella abituali, nel rango dei Sedara, la frequenza delle visite di Angelica ed una certa libertà di contegno che essa certamente non avrebbe trovata lecita nelle proprie figlie. E così le visite di Angelica al palazzo divennero sempre più frequenti, sino ad essere quasi perpetue, ed essa finì con l'essere solo formalmente accompagnata dal padre, che si recava subito in amministrazione per scoprire o per tessere nascoste trame, o dalla cameriera che scompariva nel riposto per bere il caffè ed incupire i domestici sventurati. Tancredi voleva che Angelica conoscesse tutto il palazzo nel suo complesso inestricabile di foresterie vecchie e foresterie nuove, appartamenti di rappresentanza, cucine, cappelle, teatri, quadrerie, rimesse odorose di cuoi, scuderie, serre afose, passaggi, anditi, scalette, terrazzine e porticati e soprattutto di una serie di appartamenti smessi e disabitati, abbandonati da decenni e che formavano un intrico labirintico e misterioso. Tancredi non si rendeva conto, oppure si rendeva conto benissimo, che vi trascinava la ragazza verso il centro nascosto del ciclone sensuale. Ed Angelica, in quel tempo, voleva ciò che Tancredi aveva deciso. Le scorribande attraverso il quasi illimitato edificio erano interminabili. Si partiva come verso una terra incognita. Ed incognita era davvero, perché in parecchi di quegli appartamenti sperduti neppure Don Fabrizio aveva mai posto piede, il che del resto gli era cagione di non piccolo compiacimento, perché soleva dire che un palazzo del quale si conoscessero tutte le stanze non era degno di essere abitato. I due innamorati si imbarcavano verso Citera su una nave fatta di camere cupe e di camere solatie, di ambienti sfarzosi o miserabili, vuoti o affollati, di relitti di mobilio eterogeneo. E l'Eros era sempre con loro, malizioso e tenace. Il gioco in cui trascinava i due fidanzati era pieno di azzardi e di malia. Tutti e due, vicinissimi ancora all'infanzia, prendevano piacere al gioco in sé, godevano nell'inseguirsi, nel perdersi, nel ritrovarsi, ma quando si erano raggiunti, i loro sensi aguzzati prendevano il sopravvento e le cinque dita di lui, che si incastravano nelle dita di lei col gesto caro ai sensuali indecisi, il soffregamento soave dei polpastrelli sulle vene pallide del dorso, turbava tutto il loro essere, preludeva a più insinuate carezze. I due passavano così quelle giornate in vagabondaggi trasognati, scoprirono inferni che l'amore poi redimeva, rinvenivano paradisi trascurati che quello stesso amore dopo profanava, il pericolo di far cessare il gioco per incassarne subito la posta si acuiva, urgeva per tutti e due. Alla fine non cercavano più, ma se ne andavano assorti nelle stanze più isolate, quelle dalle quali nessun grido avrebbe potuto giungere a nessuno. Ma grida non vi sarebbero state, solo invocazioni e singulti bassi. Invece se ne stavano lì tutti e due, stretti ed innocenti, a compatirsi l'un l'altro. Le stanze più pericolose per loro erano quelle della foresteria vecchia, appartate, meglio curate, ciascuna col suo bel letto dalle materasse arrotolate che un colpo della mano avrebbe bastato a distendere. Un giorno, non il cervello di Tancredi, che in questo non aveva nulla da dire, ma tutto il suo sangue aveva deciso di finirla. Quella mattina Angelica, da quella bella canaglia che era, gli aveva detto «Sono la tua novizia», richiamando alla mente di lui, con la chiarezza di un invito, il primo incontro di desideri corso fra loro, e già la donna, resa scarmigliata, si offriva. Già il maschio stava per sopraffare l'uomo, quando il boato del campanone della chiesa piombò quasi a picco sui loro corpi giacenti, aggiunse il proprio fremito agli altri. Le bocche compenetrate dovettero disgiungersi per un sorriso, si ripresero, e l'indomani Tancredi doveva partire. Quelli furono i giorni migliori della vita di Tancredi e di quella di Angelica. Vite che dovevano poi essere tanto variegate, tanto peccaminose sull'inevitabile sfondo di dolore. Quando furono divenuti vecchi e inutilmente saggi, i loro pensieri ritornavano a quei giorni con rimpianto insistente. Erano stati i giorni del desiderio sempre presente perché sempre vinto, dei letti, molti, che si erano offerti e che erano stati respinti, dello stimolo sensuale che, appunto perché inibito, si era un attimo sublimato in rinunzia, cioè in vero amore. Quei giorni furono la preparazione a quel loro matrimonio, che anche eroticamente fu mal riuscito. Una preparazione però che si atteggiò in un insieme a sé stante, squisito e breve, come quelle sinfonie che sopravvivono alle opere dimenticate e che contengono accennati e con la loro giocosità velata di pudore tutte quelle arie che poi nell'opera dovevano essere sviluppate senza destrezza e fallire. Uno di quei giorni Don Fabrizio aveva ricevuto una lettera del prefetto di Girgenti, redatta in stile di estrema cortesia, che gli annunziava l'arrivo a Donna Fugata del cavaliere Aimone Chevalier di Monterzuolo, segretario della prefettura, che avrebbe dovuto intrattenerlo di un argomento che stava molto a cuore al governo. Don Fabrizio, sorpreso, spedì l'indomani il figlio Francesco Paolo alla stazione di posta per ricevere il Missus Dominicus e invitarlo a venire ad alloggiare a palazzo. La corriera giunse sul far della notte con la sua guardia armata a cassetta e con lo scarso carico di volti chiusi. Da essa discese anche Chevalier di Monterzuolo, riconoscibile subito dall'aspetto esterrefatto e dal sorrisetto guardingo. Egli si trovava da un mese in Sicilia, nella parte più strenuamente indigena dell'isola, per di più, e vi era stato sbalzato dritto dritto dalla propria terricciola del Monferrato. Di natura timida e congenitamente burocratica, si trovava molto a disagio. Aveva avuto la testa imbottita da quei racconti briganteschi mediante i quali i siciliani amavano saggiare la resistenza nervosa dei nuovi arrivati e da un mese individuava un sicario in ciascun usciere del proprio ufficio ed un pugnale in ogni tagliacarte di legno sul proprio scrittoio. Inoltre la cucina all'olio aveva da un mese posto in disordine le sue viscere. Adesso se ne stava lì nel crepuscolo con la sua valigetta di tela bigia e guatava l'aspetto privo di qualsiasi civetteria della strada in mezzo alla quale era stato scaricato. L'iscrizione Corso Vittorio Emanuele, che con i suoi caratteri azzurri su fondo bianco ornava la casa in sfacelo che gli stava di fronte, non bastava a convincerlo che si trovasse in un posto che dopo tutto era la sua stessa nazione. Quando Francesco Paolo gli si avvicinò presentandosi, strabuzzò gli occhi perché si credette spacciato, ma l'aspetto composto e onesto del ragazzone biondo lo rassicurò alquanto e quando poi comprese che era invitato ad alloggiare a Palazzo Salina fu sorpreso e sollevato. Giunto a palazzo, i volti barbuti dei campieri che stazionavano armati nel primo cortile turbarono di nuovo l'anima di Chevalier di Monterzuolo, mentre poi la bonarietà distante dell'accoglienza del principe, insieme all'evidente fasto degli ambienti intravisti, lo precipitarono in opposte cogitazioni. Rampollo di una di quelle famiglie della piccola nobiltà piemontese che viveva in dignitosa ristrettezza sulla propria terra, era la prima volta che si trovava ospite di una grande casa, e questo raddoppiava la sua timidità. Mentre gli aneddoti sanguinosi uditi raccontare a Girgenti, l'aspetto oltremodo protervo del paese nel quale era giunto e gli sgherri, come pensava lui, accampati nel cortile, gli incutevano spavento. in modo che scese a pranzo martoriato dai contrastanti timori di chi è capitato in un ambiente al di sopra delle proprie abitudini e da quelle dell'innocente caduto in un agguato brigantesco. A cena mangiò bene per la prima volta da quando aveva toccato le sponde sicule, e l'avvenenza delle ragazze, l'austerità di padre Pirrone e le grandi maniere di don Fabrizio lo convinsero che il palazzo di donna Fugata non era l'antro del bandito Capraro e che da esso sarebbe probabilmente uscito vivo. Alla fine del pranzo si avvicinò a don Fabrizio e lo pregò di voler concedergli un colloquio privato perché intendeva ripartire l'indomani mattina, ma il principe gli spiaccicò una spalla con una manata e col più gattopardesco sorriso: «Niente affatto, caro cavaliere», gli disse. «Adesso lei è a casa mia e la terrò in ostaggio sicché mi piacerà. Domani non partirà. E per esserne sicuro, mi priverò del piacere di parlare con lei a quattro occhi sino al pomeriggio». Thank you.